discenderlo. A presenza reale, il ciglio grave, la maniera sale. E l'alma mia lo sa ben quale sia. Leggiadro il volto e vago il portamento. Languiro, Dio mi sento. Ella di Dario accesa. Avrà Dario statira, statira deve assalire generale fortune. Ed io negletta soggiacerò l'impero d'una sciocca reina. Ah, non fiore!